Hai visto come cambia il vento? Oggi non mi trucco ed esco come mi va. Che non mi serve abbinare le scarpe al rossetto come nella pubblicità. Perché oggi ti ricordo a stento mentre la portinaia chiede come mi va. Io le rispondo tutto bene, l'oroscopo ha detto. Per guardare il cielo, oppure un'astronave di zucchero a vento.